Bibbia Martini, Atti degli Apostoli 7 Stefano avuta la permissione di rispondere, dice molte cose intorno all'alleanza di Dio con Abramo, e coi suoi discendenti e i di Mosè, e dell'uscita dei figliuoli di Israele dall'Egitto, e del tabernacolo, e del tempio edificato da Salomone, riprendendo i giudei per avere ed essi, e i padri loro resistito allo Spirito Santo. Dicendo poi, che vedeva Gesù sedente alla destra di Dio, egli è lapidato, deponendo i testimoni e le vesti loro ai piedi di Saulo. Egli prega per coloro, che lo lapidavano. Disse adunque il principe dei sacerdoti, queste cose stanno elenco così? Ma egli disse, uomini fratelli, e padri udite, il Dio della gloria apparì al padre nostro Abramo, mentre era nella Mesopotamia, prima che abitasse in Charran, e dissegli, parti dalla tua terra, e dalla tua parentela, e vieni in quel paese, che io ti mostrerò. Allora esci dalla terra dei Caldei, e abitò in Charran. E di là, morto che fu suo padre, trasportollo in questo paese, dove ora voi abitate. E non gli diede di esso in proprietà nemmen tanto da posare il piede, ma gli promise di farne padrone lui, e la sua discendenza dopo di lui, non avendo egli prole. E Dio gli disse, che la discendenza di lui sarebbe pellegrina in paese altrui, e l'avrebbero posta in schiavitù, e sarebbe maltrattata per 400 anni, e la nazione, di cui sarà stata schiava, la giudicherò io, disse il Signore, e dopo queste cose usciranno, e serviranno a me in questo luogo. E diedegli l'alleanza della circoncisione, e così egli generò Isacco, e lo circoncise l'ottavo giorno, e Isacco Giacobbe, e Giacobbe i 12 patriarchi. I patriarchi poi per invidia venderon Giuseppe, onde fu condotto in Egitto, ma Dio era con lui, ed egli lo cavò fuori di tutte le sue tribolazioni, e diedegli grazia, e sapienza dinanzi a Faraone re d'Egitto, onde lo costituì soprintendente dell'Egitto, e di tutta la sua casa. Venne di poi la fame sopra tutto l'Egitto, e nella Cananea, e miseria grande, e i padri nostri non trovavano da mangiare. E avendo udito Giacobbe, che vi era del grano in Egitto, mandò dapprima i padri nostri, e la seconda volta fu riconosciuto Giuseppe da suoi fratelli, e si rese nota a Faraone la stirpe di lui. E Giuseppe mandò a chiamare il padre suo Giacobbe, e tutta la sua famiglia di 75 anime. E andò Giacobbe in Egitto, e morì egli, e i padri nostri. E furon trasportati a Sichem, e posti nel sepolcro comperato da Abramo a prezzo di denaro da figliuoli di Emor figliuolo di Sichem. Ma avvicinandosi il tempo della promessa giurata da Dio ad Abramo, crebbe, e moltiplicò, il popolo nell'Egitto, sino a tanto che venne un altro re dell'Egitto, il quale non sapeva nulla di Giuseppe. Questi usando astuzie contro la nostra stirpe, maltrattò i padri nostri di modo, ci esponessero i propri figli, perché non si propagassero. Nello stesso tempo nacque Mosè, ed era caro a Dio, il quale fu nudrito per 3 mesi nella casa di suo padre. E quando fu esposto, lo raccolse la figliuola di Faraone, e se lo allevò come figliuolo. E fu addottrinato Mosè in tutta la sapienza degli egiziani, ed era potente in parole, e in opere. Compiuta poi che ebbe l'età di 40 anni, gli entrò in cuore di visitare i suoi fratelli, i figliuoli di Israele. E vedutone uno, che veniva maltrattato, prestogli aiuto, e fece le vendette dell'oppresso, avendo ucciso l'egiziano. Ed egli si pensava, che i suoi fratelli intenderebbero, come Dio per mano di lui dava loro la salute, ma essi non l'intesero. Il di seguente si fece vedere ad essi, mentre altercavano, e li esortava alla pace, dicendo, o uomini, voi siete fratelli perché vi fate del male l'un all'altro? Ma colui, che faceva ingiuria al prossimo, lo rispinse, dicendo, chi ti ha costituito principe, e giudice sopra di noi? Vuoi tu forse uccidermi, come uccidesti Geri l'egiziano? A questa parola fuggì Mosè, e stette pellegrino nella terra di Madian, dove generò 2 figliuoli. E passati 40 anni gli apparì nel deserto del monte Sina l'angelo nel fuoco fiammante di un roveto. Veduto ciò si stupì Mosè dell'apparizione, e accostandosi egli per osservare, udì una voce del Signore, che dissegli, io sono il Dio dei padri tuoi, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Atterrito Mosè non ardiva di osservare. Ma il Signore gli disse, cavati da tuoi piedi le scarpe, perché il luogo, dove stai, è terra santa. Ho veduto l'afflizione del popolo mio, che è in Egitto, e ho uditi i loro gemiti, e sono disceso per liberarli. Ora vieni, e ti manderò in Egitto. Questo Mosè, cui rifiutarono col dire, chi ti ha costituito principe, e giudice? Questo è principe, e liberatore mandollo Iddio per ministero dell'angelo, che gli apparì nel roveto. Questi li trasse fuori, avendo fatto segni, e prodighi nella terra di Egitto, e nel Mare Rosso, e nel deserto per 40 anni. Questi è quel Mosè, che disse a figliuoli di Israele, Dio susciterà a voi un profeta del numero dei vostri fratelli, come me, lui ascolterete. Questi è, che fu colla adunanza del popolo nel deserto col cangelo, che gli parlava nel monte Sina, e con i padri nostri, e ricevette le parole di vita per darle a noi, al quale non vollero essere ubbidienti i padri nostri, ma lo rigettarono e si rivolsero col loro cuori all'Egitto, dicendo ad Aronne, fa a noi degli dei, i quali ci vadano innanzi, perché di quel Mosè, che ci ha tratti dalla terra di Egitto, non sappiam quel, che ne sia stato. E fecer di che giorni un vitello, e offerirono sacrificio a un simulacro, e si rallegrarono delle opere delle lor mani. Ma Dio da lor si rivolse, e gli diede a servire alla milizia del cielo, come sta scritto nel libro dei profeti, mi avete voi forse offerto vittime, e ostie per 40 anni nel deserto o casa d'Israele. Ma voi avete portato il padiglione di Moloch, e l'astro del vostro dio Renfam, figure fatte da voi per adorarle. E io vi trasporterò di là da Babilonia. Ebbero i padri nostri il tabernacolo del testimonio nel deserto, conforme aveva ordinato Dio, dicendo a Mosè, che lo facesse secondo il modello, che aveva veduto. Il quale ricevuto di mano in mano lo condusser seco i padri nostri con Gesù a prender possesso delle nazioni, le quali andò Dio scacciando dal cospetto dei padri nostri sino ai giorni di Davide. Il quale trovò grazia davanti a Dio, e pregò di trovare un tabernacolo per il Dio di Giacobbe. Salomone poi edificò casa per esso. Ma non abita in tempi manufatti l'eccelso, come dice il profeta, il cielo è mio trono, e la terra sgabello a miei piedi. Qual sorta di casa mi edificherete, dice il Signore? O qual sarà il luogo del mio riposo? Non ha ella fatto la mano mia tutte queste cose? Duri di cervice, e incirconcisi di cuore, e di adito, voi sempre resistete allo Spirito Santo, come i padri vostri, così anche voi. Qual dei profeti non perseguitarono i padri vostri? E uccisero coloro, de predicevano la venuta del giusto, di cui voi siete stati adesso i traditori, e gli omicidi, i quali avete ricevuto la legge per ministero degli angeli, e non l'avete osservata. All'udir tali cose si rodevano nei loro cuori, e digrignavano i denti contro di lui. Ma egli pieno essendo di Spirito Santo, fiso mirando il cielo, vide la gloria di Dio, e Gesù stante alla destra di Dio. E disse, ecco che io veggo aperti i cieli, e il figliuolo dell'uomo stante alla destra di Dio. Ma quegli alzando le grida, si turaron le orecchie, e tutti riaccordo li corsero addosso con furia. E cacciatolo fuora della città lo lapidavano, e i testimoni posarono le loro vesti ai piedi di un giovanotto chiamato Saulo. E lapidavano Stefano, il quale orava, e diceva, Signore Gesù, ricevi il mio spirito. E piegate le ginocchia, gridò ad alta voce, dicendo, Signore, non imputar loro questa cosa a peccato. E detto questo si addormentò nel Signore. E Saulo era consenziente alla morte di lui. Note, 7,2, ma egli disse, Ecce Stefano era stato accusato e di avere detto male di Mosè, e di aver predetta la distruzione del Tempio. Per dimostrare la vanità di tali accuse egli tesse in ristretto una magnifica storia della religione giudaica, nella quale fa vedere, primo, che egli non ha offeso il rispetto dovuto a Mosè, con predicare Gesù Cristo, mentre questi è quel profeta promesso dallo stesso Mosè, e aspettato dalla nazione, e di cui lo stesso Mosè aveva ordinato, che si ascoltassero e si eseguissero gli insegnamenti. In secondo luogo, che la religione non è stata mai ristretta né al tabernacolo, né al tempio. Finalmente che gli ebrei, se con equità e giustizia disaminano se stessi e riguardano quali siano stati verso Dio e verso lo stesso Mosè e gli altri profeti mandati da Dio, niuna ragione troveranno di preferirsi alle nazioni idolatre. Uomini fratelli e padri, e ci rivolge il suo discorso in primo luogo a tutto il popolo, e dice fratelli, rammentando loro come egli era unito con essi, non tanto per la comune origine da Abramo, ma molto più per la comunione della stessa legge, e per il culto, e per la fede nello stesso Dio, e per la partecipazione delle medesime promesse. In secondo luogo si indirizza ai senatori, e ai capi della nazione, che gli erano dappresso. Il Dio della gloria. Quel Dio, che è fonte e cagione di tutta la gloria, che possano avere gli angeli e gli uomini. Con queste sole parole distrugge la calunnia apostagli, come se bestemmiato avesse non solo contro Mosè, ma anche contro Dio medesimo. Capitolo 6, 2, apparì al padre nostro Abramo. Questa apparizione non è almen così chiaramente registrata nella Genesi, ma è rasi conservata nella tradizione. Comincia esse, Stefano da Abramo, perché questi era stato il primo padre e patriarca degli ebrei, e il primo cui fosse promesso il Cristo che doveva nascere della sua stirpe. Mentre era nella Mesopotamia, ici. Nella Genesi, ur patria di Abramo si dice, che era nella Caldea, ma la Caldea stende Asia anche nella Mesopotamia, onde non vuò discrepanza tra Mosè e Stefano. Prima che abitasse in Charran. Charran, ovvero care città anch'essa della Mesopotamia verso la terra di Canaan, nella qual città dimorò Abramo alcuni anni, gennaio 11. 32, 7,5. E non gli diede di esso in proprietà e ci Dio non fece padrone Abramo nemmen d'un palmo di questa terra, della quale voi vi gloriate di essere possessori, benché gliela avesse promessa, e quello, che è più, l'avea promessa a lui, e alla sua discendenza in tempo, che egli non avea figliuoli, e non avea quasi più speranza di averne. Così fece Dio prova della fede di Abramo, il quale credette a Dio, e fu beato non per la possessione di questa terra, ma bensì per la sua fede. Così viene esse, Stefano a insinuar di passaggio, che anche i discendenti di Abramo non avranno né salute, né felicità se non mediante la fede. 7,6. In paese altrui. Per 400 anni. E nella terra di Canaan, e nell'Egitto abitarono e Abramo, e la sua discendenza come forestieri, e pellegrini. Questo numero di 400 anni si ha anche dalla Genesi, capitolo 15, 13, ma nell'Esodo, capitolo 12, 41, e nell'Epistola, Galati, capitolo 3, 17, si notano 430 anni. Questa differenza nasce dalle differenti epoche, che si prendono in questi diversi luoghi per computare gli anni sino all'uscita dall'Egitto. Impero che se si comincia a contare dall'ingresso di Abramo nella terra di Canaan, sono anni 430 sino alla liberazione dall'Egitto, se poi si conti dalla nascita di Isacco, sono anni 405. E questo ci basti di aver detto intorno a una difficoltà, nello scioglimento della quale in diverse opinioni sono divisi gli interpreti. 7,7. La giudicherò io. La punirò con flagelli straordinari, inusitati, e tali, che facciam fede e della potenza mia, e della costante protezione, con la quale difendo il mio popolo. 7,8. E diedegli l'alleanza della circoncisione, e ci perché non si creda, che l'ubbidienza prestata al patto della circoncisione fosse in qualche modo cagione delle grandiose promesse fatte ad Abramo, e alla sua discendenza, nota Stefano, che la circoncisione fu come il sigillo e il pegno delle stesse anteriori promesse, in virtù delle quali ancora venne al mondo Isacco, figura della grazia gratuitamente concessa mediante il Vangelo. 7,9. Ma Dio era con lui. Quasi voglia dire esse. Stefano, non essere cosa nuova nello stesso popolo di Dio la persecuzione, e l'odio delle persone allo stesso Dio più care. 7,14. Di 75 anime. Questo numero concorda con la Genesi, capitolo 46. 27. Secondo la versione greca dei LXX. Della quale servendosi in che tempi comunemente gli ebrei, non è perciò meraviglia, se secondo la stessa versione conti S, Stefano 75 persone. Impero che alle 70 del testo ebreo aggiunge la greca versione Machir figliuolo di Manasse, Galad figliuolo di Machir, Sutalam, Etam figliuoli di Efraim, ed Eden, figliuolo di Sutalam, la qual giunta è presa dal capitolo 26. Dec numeri. 7,16. Nel sepolcro comperato da Abramo. Dach figliuoli di Emor figliuolo di Sichem. Non volendo mettere la mano, come arditamente fanno taluni, nel testo sacro, e mutare a capriccio quello che non si intende, bisogna dire che la compera, della quale si parla in questo luogo, sia quella di cui fassi menzione nella Genesi capitolo 23, compera fatta da Abramo, e non di quella rammemorata nel capitolo 23, fatta da Giacobbe, il nome del quale vorrebbero in questo luogo sostituire alcuni in cambio di quello di Abramo. Parla S. Stefano di una compera di sepolcro, e di compera fatta con denaro effettivo. La compera di Giacobbe fu di un campo per alzarvi un altare, e il prezzo fu di 100 agnelli. Una difficoltà vi resta da sciogliere, ed è che Abramo comperò da Efron figliuolo di Seor, dove Stefano dice, questo sepolcro essere stato comperato da figliuoli di Emor. A questo rispondesi che il padre di Efron poté avere due nomi, e chiamarsi Eseor, ed Emor, e quel Sichem, di cui qui si dice, che Emor era figliuolo, è differente dall'altro Sichem, di cui si parla nella Genesi, capitolo 23. Ma dicendosi nel libro di Giosuè, capitolo 24. 32, che le ossa di Giuseppe furono sepolte in Sichem in quel campo, che Giacobbe comperò da figliuoli di Emor, converrà dire, che in quel primo luogo comperato da Abramo sepolti fossero i fratelli di Giuseppe, e nell'altro il solo Giuseppe. 7,17. Il tempo della promessa e ci. Il termine dei 400 anni, dopo i quali gli ebrei dovevano entrare nella terra di Canaan secondo le promesse fatte da Dio ad Abramo, e confermate con giuramento. Vedi gennaio 22. 7,19. Usando astuzie contro la nostra stirpe. Stefano ha in vista le parole di Faraone, venite, opprimiamo costoro con saviezza, Exod. I, die. Di modo che esponessero e ci facendo finalmente questo tiranno guerra manifesta agli ebrei, li costrinse ad esporre i propri figliuoli, per sottrarli alle spade dei carnefici, con che a poco doveva venire a distinguersi la nazione. 7,22. Fu addottrinato Mosè in tutta la sapienza degli egiziani, ici. Fu grande per molti secoli la reputazione degli egiziani nelle scienze, e nelle arti. 7,23. Gli entrò in cuore di visitare ici Mosè sapeva la sua origine, ma era stato allevato tra le grandezze, e le delizie della corte, tra suoi fratelli non vedeva se non oggetti di afflizione, e di dolore. Con tutto questo ricusando di essere figliuolo della figlia di Faraone, volle piuttosto aver parte all'afflizione del popolo di Dio, maggior ricchezza stimando gli obbrobri di Cristo, che i tesori dell'Egitto. Con ciò sia che avea in vista la ricompensa, Eb. 11, 24. 25, 26. 7,24. Fece le vendette e ci Mosè in questo fatto fu condotto da particolar movimento dello Spirito del Signore, come osserva S. Agost. Q. 2. In Exod. Dio aveva destinato Mosè ad essere il liberatore del suo popolo dalla tirannia degli egiziani, e S. Stefano nel versetto seguente insinua chiaramente che Dio infondendo nel cuor di Mosè l'aere dire di spargere con tanto suo risico il sangue dell'egiziano per salvare uno dei suoi fratelli, aveva voluto far intendere agli ebrei, come per mano di lui voleva dar salute al suo popolo, avvicinandosi già il tempo prefisso alla loro liberazione, ed essendo probabilmente non ignoto agli stessi ebrei, in qual modo aveva Dio non solamente salvato quest'uomo dalle acque, ma condottolo nella stessa corte di Faraone, aveva disposto che fosse per mezzo di una educazione nobile e generosa renduto idoneo alle grandi cose, che dovevan per lui eseguirsi. Mosè dunque in quest'atto cominciò a esercitare la missione impostagli da Dio, e a far vendetta dell'ingiusta oppressione, sotto la quale da tanto tempo gemevano i suoi fratelli. 7,27 Chi ti ha costituito principe? Eci. In tutto questo discorso S. Stefano ponendo in bella veduta la virtù di Mosè, e soprattutto la sua carità, rappresenta ancora quanto male fu egli in ogni tempo corrisposto dagli ebrei, e con questo fa vedere che egli sa rendere a Mosè l'onore che gli è dovuto, e distrugge la calunnia di chi lo accusava di far poca stima di quel gran legislatore, e l'accusa ritorce contro gli stessi avversari. 7,29 Nella terra di Madian. Il paese di Madian, dove fuggì Mosè, è quello che è situato sul lido orientale del Mar Rosso, e non l'altro, che trovasi a levante del Mare Morto. 7,30 Nel deserto del Monte Sina. Il Sina, monte nei deserti di Arabia, quello stesso, dove fu poi data la legge. L'angelo. Dicendo Mosè nell'Esodo, che il Signore gli parlò dal roveto, quindi è che molti padri e greci, e anche latini hanno creduto che quest'angelo fosse Gesù Cristo medesimo, cui si dà nella scrittura il nome di angelo del Gran Consiglio. Altri padri, come S. Agostino, n'hanno creduto che la voce udita da Mosè fosse d'un angelo spedito da Dio per significare a Mosè la sua volontà. 7,33 Cavati da tuoi piedi le scarpe, eci. Nella stessa guisa l'angelo, che apparì a Giosuè, capitolo V15, gli ordinò di scalzarsi in segno di rispetto e di umiltà. E quindi venne, che poi stabilito fosse nell'antica legge, che i sacerdoti facessero nel tempio le loro funzioni a piedi scalzi, e siccome era proprio degli schiavi l'andar così scalzi, quindi è che questo rito veniva a indicare qual debba essere lo spirito di riverenza, di soggezione, e di timore, e tremore, con cui deve starsi dinanzi al gran padrone dell'universo, nelle mani del quale sta la vita e la morte di tutti gli uomini. 7,35 Questo Mosè, cui rifiutarono. E principe, e liberatore e ci seguita ad esaltare i benefici fatti al popolo da Mosè, e la gloria alla quale Dio innalzò questo liberatore, onde più insoffribile apparisca l'ingratitudine degli ebrei, e vie più ferma, e infallibile la testimonianza di questo sommo profeta a favore di Gesù Cristo, e finalmente si intenda, non essere da maravigliarsi, se i figliuoli di coloro che rigettarono Mosè, rigettino ancora, e perseguitino Gesù Cristo. 7,39 Si rivolsero con loro cuori all'Egitto. Bramarono di ritornare nell'Egitto, e lontani di là col corpo tenevano i loro cuori rivolti agli dei di quel paese, dimentichi oramai della durissima schiavitù, nella quale avevano dovuto vivere, e ribelli non meno a Dio, che a Mosè. 7,41 E fecero un vitello. A imitazione degli egiziani, i quali avevano per principale divinità il dio Apide. 7,42 Ma Dio da lor si rivolse, e li diede a servire alla milizia e ci Dio li abbandonò, e immutatosi di padre benefico in giudice rigoroso, lasciolli condurre dalle prave loro inclinazioni ad adorare Kenumi la milizia del cielo, cioè il sole, la luna, le stelle, vale a dire, che dal culto di un falso dio al culto di molti altri si avanzarono non meno falsi e bugiardi. Vedi Deut. 17,3 Mi avete voi forse offerto eci? Queste parole del profeta Amos sono simili a quelle del Deuteronomio, capitolo 27. Immolarono ostie ai demoni, e non a Dio, agli dei, che non conoscevano. Come se dicesse Dio agli ebrei, il vostro cuore essendo tutto rivolto agli dei dell'Egitto, i sacrifici che offeriste nel deserto non erano offerti a me, ma agli idoli che occultamente adoravate. Impero che se il culto di Dio nell'amore di Dio consiste, secondo il detto di Agostino, come mai può avere Dio per offerto a sé quello che da un cuore procede avverso da lui e da altro reo amore occupato? 7,43 Avete portato il padiglione di Moloch. Era cosa usitata tra gli idolatri il portare intorno i simulacri dei loro di sotto magnifici padiglioni. Moloch, giusta il sentimento di molti interpreti, È lo stesso, Kebal. Si dice adunque che finalmente precipitò Israele in pubblica e infame idolatria. E l'astro del vostro dio Renfam. Sopra questo dio Renfam molte sono, e diverse le opinioni degli interpreti. La più probabile sia che si intenda Saturno, il di cui pianeta fu adorato dagli egiziani, e lo adorarono anche gli ebrei. 7,44. Ebbero il tabernacolo del testimonio, chiamato anche tabernacolo dell'adunanza, dove Dio soleva parlare al popolo e fargli intendere la sta volontà, come egli dice nell'Esodo XXX. 42-43. In esso portavasi l'arca dell'alleanza, cosiddetta, perché conteneva le tavole della legge. S. Stefano viene qui all'altra parte del suo ragionamento, che risguarda il luogo del pubblico culto, e dimostra che questo luogo variò senza che la religione variasse, donde ne segue che ella non è a un certo luogo ristretta. 7,46. E pregò di trovare un tabernacolo. Chiese al Signore di poter edificare un'abitazione e una casa al Dio di Israele. 7,48. Ma non abita eci. La presenza di Dio, che ha per suo proprio attributo l'immensità, non può essere compresa da un tempio materiale. I profeti più volte avevano avvertiti gli ebrei di non porre, come facevano, una eccessiva e vana fidanza nel loro tempio, e più volte ancora ne avevano predetta la distruzione. Vedi Jerem. Capitolo 7. 7,51. Duri di cervice e incirconcisi di cuore eci. Pieno il santo diacono di uno zelo ardentissimo della salute della sua gente, vedendo che invece di umiliarsi e compungersi dei loro errori si accendevano sempre più d'ira e di furore contro di lui, lasciata da parte la sua dolcezza, dimostrando quanto poco caso facesse delle loro minacce, rimprovera loro le antiche e le nuove scelleratezze, toglie loro la gloria della circoncisione, di cui tanto andavan superbi, mostrando che se sono circoncisi nella carne, sono incirconcisi di cuore e di spirito, come tante volte Iddio avea rinfacciato ad essi nelle scritture, e ne solamente li confonde con gli idolatri, ma li dichiara peggiori di essi per l'enorme abuso delle grazie divine e per la loro crudeltà verso i profeti mandati da Dio per la loro conversione e salute, e finalmente per l'orrendo misfatto commesso nella persona del giusto tradito e ucciso da essi. Voi sempre resistete allo Spirito Santo. Voi vi opponete e contraddite allo Spirito del Signore, il quale in tante guise alla penitenza vi invita e alla conversione. Peggiori figliuoli di genitori perversi. 7,55. Vide la gloria di Dio, ovvero il Dio della gloria. Vide Dio nella sua gloria, quanto può vedersi da uomo mortale. Ecco che io veggo aperti i cieli, e il figliuolo dell'uomo, stante e ci vide Gesù Cristo non sedente alla destra della virtù di Dio, ma stante in piedi, quasi per animare e soccorrere il suo martire nel combattimento. 7,56. Gli corsero addosso. Nei tempi della loro libertà gli ebrei avevano un giudizio, che dicevasi giudizio di zelo, e consisteva in lapidare a furia di popolo chiunque sollecitasse la gente alla idolatria. Stefano non era certamente reo di simil delitto, e perciò non senza somma ingiustizia potevano gli ebrei prendere questa strada per toglierselo davanti, e tanto più, che in questi tempi il diritto di vita e di morte era stato lor tolto dai romani e anzi l'audacia e la tracotanza di questi falsi e furiosi zelatori fu quella che finalmente stancò la pazienza dei romani e fu cagione della rovina della città e del tempio. 7,57. E cacciatolo fuora della città eci. Quasi temendo che la città non venisse a contaminarsi con lo spargimento del sangue del preteso bestemmiatore. E secondo l'uso la lapidazione facevasi fuori di città. E i testimoni posarono le loro vesti eci quantunque il martirio di Stefano fosse effetto di sollevazione sediziosa. Con tutto questo vollero osservare l'antico rito, che i testimoni fossero i primi a scagliar la pietra contro del reo. Vedasi Deuteron. 17:7. 13:0. A piedi di un giovanotto. Si crede che allora Saulo avesse circa 30 anni. Egli, come dice S. Agostino, stando a custodire le vesti di coloro che lapidavano S. Stefano, faceva di più che se avesse tirato dei sassi al santo martire. 7,59. Ed piegate le ginocchia, gridò ad alta voce, Eci. Che grandezza d'animo superiore a tutte le forze della natura. Si inginocchia per orare con intenzione ed affetto maggiore, alza la voce per sempre più dimostrare l'ardente affetto di carità e di compassione verso dei suoi inumani fratelli, per i quali domanda la grazia di conversione. Grazia, che egli impetrò per Saulo, e forse anche per altri, non potendo Dio niuna cosa negare a una tal carità.